Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci trovati a Salva Danaio, una buona giornata da Deborah Rosciani. Ho questo ingrato compito, quello di parlare di borsa, e insomma lo avete già sentito ampiamente nei nostri numerosi collegamenti che stiamo orchestrando, organizzando da questa mattina, come puntualmente facciamo per la verità ogni giorno, oggi più che mai. E insomma, la giornata per le borse è cupa, definiamola così, e d'altronde non ci potevamo aspettare niente di meglio dopo il ribasso pesantissimo accusato di nuovo ieri sera da Wall Street, replicato in maniera profondissima stamattina dai mercati asiatici, e oggi l'Europa vive una nuova giornata di tonfi che a questo punto assumono anche insomma delle modalità preoccupanti. Abbiamo un 8% di calo a Parigi, Francoforte sta perdendo l'8,89%, Londra il 7,72%, l'S&P MIBA Piazza Affari l'8,27%. Dopo quello che avevamo visto lunedì scorso e anche mercoledì, insomma, avevamo confidato in un'interruzione di questo trend almeno drammatico in certe sue modalità, e invece a quanto pare non abbiamo ancora visto tutto. I mercati scendono e a preoccupare sono i fattori più diversi. Ormai però quello che è l'elemento che domina, sul quale possiamo ormai commentare insomma con assoluta certezza, è la mancanza di fiducia totale tra tutti gli operatori di mercato, e la mancanza di fiducia che a questo punto comincia anche a contaminare comincia anche a pervadere le famiglie italiane. Noi oggi rifacciamo un po' il punto della situazione per cercare di capire cosa sta accadendo quest'oggi, ma insomma in realtà si replica esattamente quello che è successo ad inizio settimana. Ormai siamo sull'orlo della recessione, che secondo il Fondo Monetario Internazionale sarà piuttosto seria. Detto questo, abbiamo avuto però in settimana anche tutta una serie di misure che sono state varate in sede europea, e ogni governo ha agito per conto suo per ampliare la rete di garanzie per i nostri investimenti, per i nostri risparmi. Un decreto, come sapete bene, è arrivato anche due sere fa, lo ha preso il governo italiano a tutela delle banche italiane, un provvedimento di 5 articoli che prevede la possibilità per il Tesoro di entrare nel capitale delle banche in crisi di liquidità con lo strumento delle azioni privilegiate, ma soprattutto abbiamo avuto l'importante rafforzamento delle misure di rassicurazione e tutela dei depositi bancari già protetti nel nostro paese, come abbiamo ben spiegato nel corso di tutta la settimana, dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, per un ammontare per depositario di 103.000 euro. Il governo ora dice: noi rafforziamo le garanzie del fondo e le estendiamo per 3 anni. Una misura che naturalmente ha voluto soprattutto riportare la serenità tra le famiglie. Il governo ha detto: non lasceremo fallire nessuna banca, ma insomma poi ovviamente ogni giorno ci confrontiamo anche con queste cifre che vediamo dal mercato. Commentiamo questa situazione con stamattina il professor Marcello Messori, presidente di Assogestioni, che è la società che rappresenta le società di gestione del risparmio, docente anche di economia dei mercati monetari e finanziari all'Università di Roma Tor Vergata, in collegamento dai nostri studi di Radio 24 di Roma. Professor Messori, buongiorno. Buongiorno. Avrei voluto accoglierla in giornate un po' più serene, ma a quanto pare da qui a qualche mese, secondo me, siccome non ne troveremo alcuna, allora insomma togliamoci subito questa preoccupazione di averla tra noi, a parte gli scherzi. Insomma, ci sembra utile il suo punto di vista questa mattina, anche perché ci sono molte preoccupazioni fra molti italiani, e questo punto lo affronteremo fra qualche minuto anche con Marco Liera, responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore, sulle modalità con cui il decreto del governo estende le garanzie sui nostri risparmi, sui nostri conti di deposito, sui nostri conti correnti, perché non si capisce bene se ci siano o meno all'interno di questa rosa ampliata di tutele alcuni strumenti di risparmio molto diffusi fra gli italiani, che sono le obbligazioni bancarie. Noi tra poco sentiremo la nostra scheda, però professor Messori, guardi, siccome è il tema che sta dominando l'attenzione dei nostri ascoltatori, io sentirei subito un'ascoltatrice, è Paola da Torino. Ci vado col professor Messori su questo tema, poi ci torno con Marco Liera. Paola, intanto cominciamo magari a mettere qualche punto fisso, così cerchiamo di chiarire anche come stanno le cose. Paola, benvenuta. Grazie, la ringrazio di avermi chiamato. Appunto, volevo fare una domanda a proposito, cioè se la banca viene salvata, il conto corrente è a posto, eccetera eccetera, però le obbligazioni che ha emesso la banca prima, che fine fanno? Come sono garantite? Allora, qua tocchiamo un tasto credo abbastanza dolente per il professor Messori, e mi spiego subito. Noi lo abbiamo invitato spesso a Salvadanaio perché con lui abbiamo raccontato della fortissima crisi che sta pervadendo da almeno 2 anni l'industria del risparmio gestito. I disinvestimenti dai fondi comuni di investimento italiani sono stati enormi in questi ultimi 2 anni, e le motivazioni che abbiamo individuato in questa situazione è stata una motivazione di natura fortemente commerciale, professor Messori, perché molto spesso abbiamo ricordato come l'industria bancaria abbia preferito consigliare ai propri clienti obbligazioni bancarie piuttosto che appunto mantenere il proprio investimento nei fondi comuni. Oggi ci troviamo ad un, come si suol dire in queste circostanze, i nodi tornano al pettine? Beh, certamente c'è stato negli anni passati una forte sostituzione tra fondi di investimento e obbligazioni bancarie di vario tipo, sia obbligazioni bancarie semplici sia obbligazioni bancarie strutturate. Negli ultimi trimestri questa sostituzione, cioè questa scelta più o meno indotta da parte dei risparmiatori di spostarsi verso obbligazioni bancarie, è stata, devo dire, integrata da una forte propensione a sottoscrivere titoli molto liquidi, se non pronti controtermini o depositi. Però per affrontare il problema della signora Paola, io direi che non vi è e non potrebbe esserci una garanzia diretta sulle obbligazioni. Tuttavia, chi emette obbligazioni, in questo caso una banca, è responsabile della restituzione alla scadenza di queste obbligazioni, a meno che non sia insolvente, cioè non sia in fallimento. Allora, molti interventi in questo decreto governativo mirano a evitare la possibilità di fallimenti da parte delle banche, quindi indirettamente mirano anche a evitare che alla scadenza queste obbligazioni possano incontrare problemi di restituzione, il che non vuol dire naturalmente che il valore di queste obbligazioni sia garantito prima della fine del contratto. Quindi, insomma, se volessimo specificare ancora meglio per la nostra ascoltatrice, non abbiamo nel decreto legge 9 ottobre 2008 155, che è il decreto appunto di, chiamiamolo brutalmente, salvabanche nel nostro paese, non c'è neanche bisogno di chiamarlo così, non è assolutamente un termine corretto, però insomma il decreto contiene misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio. Il provvedimento non contiene garanzie dirette, a differenza di come fa invece per i depositi bancari, per le obbligazioni bancarie, ma contiene delle garanzie indirette. Nel momento in cui il governo, lo Stato, non lascerà fallire le banche italiane, indirettamente farà in modo che le banche possano garantire il rimborso di tutti i prodotti obbligazionari che hanno collocato presso i risparmiatori. Possiamo metterla così, professor Messori? Assolutamente sì, io credo che sia una sintesi efficace. Quindi io direi che i risparmiatori, se porteranno a scadenza le obbligazioni, non avranno problemi. Spenderei poi un'ulteriore parola circa il fatto che le banche italiane, in termini relativi, non hanno difficoltà particolarmente profonde, hanno buona liquidità, hanno una patrimonializzazione che è più elevata di quelle delle banche di molti altri paesi europei, per non parlare di quelle statunitensi. Dunque, la difficoltà delle banche risiede nella mancanza di fiducia e nella liquidazione delle azioni di queste banche, che naturalmente incide poi sulla possibilità di una gestione normale, ma direi che anche rispetto alle banche italiane, specie avendo costruito questa rete di protezione intorno alle nostre banche, si possa essere ragionevolmente sereni. Intanto ridò anche il punto di cronaca della situazione sui mercati. Abbiamo un meno 7% a Londra, un meno 9% a Francoforte, un meno 8,34% a Parigi, un meno 8,23% sull'S&P MIB a Piazza Affari, ancora sospesa dalle contrattazioni Unicredit, meno 14,3%, questo è il calo che segnava quando è stata sospesa dalle negoziazioni. Oggi i cali sono molto intensi su UbiBanca, meno 9,89%, su Intesa San Paolo, meno 9,84%, ma in realtà il vortice di vendite sta coinvolgendo oggi tutti e colpisce anche quei titoli che in giornate diciamo di turbolenza generalmente sono più difensivi, e infatti troviamo anche Eni con un -8,47, Enel -7,55, Prismi al -7,74, i titoli che perdono meno: Italcementi -1,88, Finmeccanica -3,70, STM -3,79%. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Adesso continueremo a sentirvi, però professor Messori, cosa sta accadendo? Abbiamo capito che siamo sull'orlo della recessione, che sarà molto pesante perché il sistema produttivo globale non potrà essere sostenuto per lungo tempo da un efficiente sistema finanziario e bancario che potrà continuare a garantire alle imprese appunto di proseguire nella politica degli investimenti, ma quello che drammaticamente viene alla luce in queste ore è che nessuno si fida più di nessuno. Assolutamente, io credo che l'aspetto della crisi di fiducia sia quello rilevante. Credo anche che su questa crisi di fiducia si innestino delle implicazioni che abbassano ulteriormente i mercati azionari. Per esempio il fatto che azioni normalmente difensive segnino questo tracollo nel mercato italiano dimostra che molti operatori hanno bisogno di far fronte a problemi di liquidità e quindi smantellano i loro investimenti. Questo naturalmente comporta che i titoli delle imprese italiane più internazionalizzati, che quindi sono nei portafogli degli operatori internazionali, subiscano la caduta più severa. Questo naturalmente è un segnale che può turbare e spaventare i risparmiatori, e quindi su questo smantellamento di posizioni da parte di attori di mercato si innesta poi una vendita derivante da caduta di fiducia e da paura. E naturalmente un andamento così negativo dei mercati azionari e più in generale del funzionamento dei mercati finanziari non può che avere conseguenze negative sull'attività reale. In prospettiva questo potrebbe determinare restrizioni nell'offerta di credito, che per adesso non sono così significative, e più in generale rende molto probabile, per usare un eufemismo, la possibilità di recessioni nell'economia internazionale. Intanto, tra l'altro, siccome qua, se no altrimenti i nostri ascoltatori pensano che siamo dei disfattisti e non abbiamo nessuna intenzione di dare la benché minima notizia positiva, guardate, io invece stamattina ne ho trovata una, perché l'Euribor, il nostro parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile, quindi l'emblema dei tassi interbancari dell'Euribor, Eurozona, ha stamattina mostrato il primo cenno di discesa da un mese a questa parte. L'Euribor a tre mesi viaggiava ieri al 5,39%, era sui massimi livelli dal 1994, stamattina è sceso al 5,38%. So che è una magrissima consolazione, ma almeno è il primo passo indietro da un mese a questa parte. Chissà che questo non sia anche un piccolissimo segnale di un allentamento della tensione tra banche e anche un effetto della maxi manovra che è stata varata due giorni fa dalle banche centrali, che hanno insieme deciso di ridurre il costo del denaro tra le principali economie di 0,5 punto percentuale. Nell'Eurozona la Banca Centrale Europea ha portato i tassi al 3,75% dal precedente 4,25%. Andiamo alle domande degli ascoltatori, continuiamo. Allora, io sentirei Maria da Verona, perché visto che abbiamo il rappresentante dell'industria del risparmio gestito, Maria da Verona ci chiede proprio una cosa relativa al suo fondo di investimento. Maria, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. E grazie per l'opportunità che grazie ci date. Grazie a lei di essere con noi, Maria. Allora, noi un paio d'anni fa abbiamo acquistato dall'Unicredit un prodotto che ci era stato caldamente raccomandato dal consulente. Allora, si trattava è strano che non le ha consigliato un'obbligazione bancaria, a parte gli scherzi. No, è un prodotto adesso, era un praticamente l'Unidiamond. È un fondo? Sì, adesso io non ho... Comunque è un fondo, Maria. E questo sì. Era, secondo la banca, era guardato a vista ed era assolutamente sicuro. Noi siamo partiti con una linea prudente, perché in quanto anche il nostro profilo di clienti era prudente. Poi diciamo che insomma ci hanno detto ma passiamo in una linea cauta, va bene, e adesso naturalmente siamo in una linea dinamica, scusi, e adesso stiamo praticamente precipitando, perché quindi una decina di giorni fa da 30.000 euro eravamo arrivati a 23 e per non parlare poi di tutto quello che abbiamo, che stiamo perdendo su tutti i fronti. Ecco, ma la mia domanda era questo: vorremmo sapere se lasciarlo nella linea dinamica oppure passarlo nella cauta. Allora, sì, certo Maria. Beh, certo, intanto ha fatto una differenza fondamentale Maria, se voleva una come dire un asset allocation prudente e conservativa, già la parola dinamico non si sposa molto bene con questa propensione all'investimento di questa ascoltatrice. Detto questo, prima di andare ad esaminare questo portafoglio, magari il professor Messori non è neanche la persona adatta, il fondo di investimento, a prescindere da chi lo ha venduto all'ascoltatrice, naturalmente in questo momento sta subendo tutti gli effetti dell'andamento di mercato, però ecco, specifichiamo molto bene che il fondo è patrimonio distinto dal patrimonio della banca, professor Messori. Assolutamente sì, io credo che si debbano distinguere due problemi. Il primo è l'investimento nei fondi di investimento, e da questo punto di vista io credo che, curiosamente, sebbene i risparmiatori mostrino una crescente disaffezione rispetto a questa tipologia di investimento, i fondi di investimento potrebbero essere davvero, come dire, la soluzione rispetto a questa crisi, perché, lo dicevamo prima, questa è una crisi di fiducia. Questa crisi di fiducia deriva dal fatto che nel portafoglio dei risparmiatori sono stati inseriti titoli spesso molto opachi, in cui forte era il rischio di liquidità. Bene, i fondi di investimento sono fondi diversificati che non hanno, come si suol dire, rischio di controparte, per le ragioni che ricordava lei prima, cioè si tratta di patrimoni separati rispetto a quelli di un gruppo bancario che può avere la proprietà della SGR che gestisce questi fondi di investimento. Sono trasparenti e sono facilmente liquidabili. Allora, la diversificazione, la trasparenza, la liquidabilità dovrebbero essere delle caratteristiche che potrebbero costituire una buona fonte per fronteggiare la crisi. Detto questo, naturalmente, se questi portafogli, ancorché diversificati, sono prevalentemente azionari, come il caso del fondo di un portafoglio dinamico, allora subiscono le oscillazioni del mercato. Faccio peraltro presente che un rapido calcolo che derivava dalle cifre che ci forniva la signora Maria indicano che questo fondo, sebbene dinamico, abbia perso meno rispetto alla media degli indici di borsa. Infatti stavo valutandolo anch'io. Sì, ovviamente, magari per una persona che magari ha un portafoglio di investimento limitato può essere una cifra drammatica perdere 7.000 sì. euro in un portafoglio di 30.000, è chiaro. Detto questo, effettivamente ci pare però che tutto sommato abbia arginato, abbia sì. protetto, insomma, il suo investimento. Detto questo, io non sono naturalmente in grado di rispondere alla domanda se sia o meno opportuno disfarsi di questo investimento ripiegando su una linea cauta oppure rimanere nella posizione. Faccio una osservazione di carattere generale. Vi è una tendenza dei risparmiatori italiani in particolare a uscire dal mercato nelle fasi in cui questi mercati hanno quasi raggiunto il minimo e di entrare nei mercati azionari quando i mercati sono vicino massimi. Al massimo. Questo naturalmente penalizza i rendimenti e massimizza le perdite. Allora, se noi pensassimo che con tutta la volatilità e le oscillazioni che questo mercato potrà ancora avere nelle prossime settimane, non siamo lontanissimi da essere arrivati a quotazioni molto basse, forse un atteggiamento prudenziale potrebbe essere quello di non Infatti. Liquidare investimenti con forti perdite. Anche il Presidente del Consiglio ha detto, insomma, cercate di essere tranquilli, mantenete le vostre azioni almeno per 18-24 mesi, e quindi poi è chiaro che uno deve fare i conti anche con la propria emotività. Quindi Maria, si faccia un check-up sereno della propria situazione, se ha pazienza a questo punto rimanga e aspetti i prossimi 3-5 anni, dopodiché si vedrà. Gianfranco da Roma aspettava da un po'. Gianfranco, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Senta, la mia domanda è proprio riguardo ai depositi bancari. Volevo sapere, se io ho 300.000 euro in tre conti diversi di tre banche diverse, sì. sono tutelato per ciascuna per 103.000 euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Gianfranco, la ringrazio. Professor Messori, sì, credo di sì. Se lui fosse stato intestatario di due conti nella stessa banca, sarebbe stato tutelato solo per 103.000 euro. Per tre banche diverse valgono tre situazioni diverse. Penso proprio di sì, perché il conto interbancario salvaguarda il conto corrente presso un istituto di credito, quindi in questa tipologia penso che valga una garanzia su ognuno dei conti. Aspetti un attimo, che però in realtà vedo una precisazione sulle Sole 24 Ore di questa mattina: il fondo garantisce il singolo depositante fino ad un massimo di 103.000 euro, i depositi in più banche dello stesso risparmiatore vengono cumulati. In realtà no, abbiamo... Ah, quindi no, quindi no. Forse in questo caso bisogna verificare se questo valga solo per il fondo interbancario o per il fondo interbancario già esistente, ecco. Esattamente, per il fondo interbancario in senso stretto, oppure sia una norma che è stata inserita per quanto riguarda la garanzia statale. Quindi bisognerebbe andare a guardare meglio sul sito, allora lo suggerisco al nostro ascoltatore, il sito appunto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, poi ci aggiorneremo. Da quello che precisa questa mattina il Sole 24 Ore, i depositi in più banche dello stesso risparmiatore vengono cumulati. Non si tratta quindi di una garanzia illimitata, ma credo che ha fatto bene professor Massori a fare questa precisazione, perché forse questa precisazione si riferisce proprio all'estensione delle garanzie statali. Magari adesso ci documentiamo meglio, però guardate, anche noi ovviamente qua siamo oggetto dell'imperversare delle notizie. Siccome continueremo per tutta la prossima settimana a cercare di darvi le risposte più attendibili possibile rispetto alle vostre insicurezze, quindi cercate di avere pazienza anche con noi se non siamo sempre tempestivi e precisi. Giuseppe da Vicenza, benvenuto. Grazie, posso parlare? Certo, grazie. Buongiorno a tutti intanto. Volevo chiedere al professore, volevo fare questa domanda. Nel caso di fallimento di una banca emittente di un ETF, che fine fanno i miei soldi investiti in ETF? Giuseppe, la ringrazio. Valgono le stesse regole che valgono per i fondi di investimento? Sì, valgono le stesse regole che valgono per i fondi di investimento. Naturalmente dipenderà anche dalla tipologia di ETF valutare l'andamento di questo titolo che lei ha sottoscritto. Normalmente gli ETF fanno riferimento a indici di borsa, ormai sono strumenti che possono essere anche molto complessi, perché oltre all'ETF semplice che fa riferimento a titoli di borsa ci possono essere anche i cosiddetti ETF di ETF, però in linea di principio si applicano le stesse regole valide per un fondo di investimento. Io tra l'altro volevo anche commentare con lei, professor Messori, questa notizia che è arrivata questa mattina da parte del Ministero dell'Economia, non l'abbiamo data nel giornale radio, volevo tornare a commentarla anche con lei, e cioè la comunicazione che il Tesoro ha fatto relativo alla volontà di accogliere la domanda aggiuntiva da parte dei risparmiatori italiani per i titoli di Stato, che è emersa evidentemente, lo abbiamo visto, nelle ultime giornate, per cui il quantitativo offerto oggi in asta dal BOT a 3 mesi è stato innalzato da 4 a 6 miliardi. Ovviamente questo sta portando una drastica riduzione dei rendimenti, ma in qualche maniera anche questo ci dimostra quello che sta accadendo, una ricerca della massima protezione dei nostri risparmi. Sì, c'è sicuramente una fuga verso la liquidità, cioè verso investimenti di orizzonte molto breve e molto sicuri, nel senso poco sensibili alle oscillazioni di mercato. Naturalmente qualsiasi titolo può subire oscillazioni di mercato. Abbiamo visto che nel caso dei titoli del debito pubblico italiano vi è stato un allargamento dei divari nei tassi di rendimento rispetto a quelli per esempio tedeschi, però si tratta comunque di titoli che oscillano meno rispetto alle oscillazioni di altre obbligazioni, per esempio i cosiddetti corporate bond o a maggior ragione dei titoli azionari. Intanto sto leggendo anche le domande che ci arrivano, le considerazioni dei nostri ascoltatori al 349-238-6666. C'è qualcuno che mi dice che ho voluto prendere in giro raccontando la notizia dell'Euribor che ha avuto questo marginale dimensionamento rispetto ai record degli ultimi giorni. Ci mancherebbe altro se in questo momento ci sentiamo di voler prendere in giro qualcuno. Ci sembrava un piccolo segnale di un'inversione di tendenza che potrebbe forse aprire lo spazio ad un'inversione di tendenza più radicale. La auspichiamo, questo è quello che è accaduto. In ogni caso, tutta questa grande liquidità che le banche centrali stanno gettando sul mercato, prima o poi un effetto lo dovranno dovranno pure avere. Maria Grazia da Udine, benvenuta. Sì, buongiorno. Avrei una domanda per il professor Messori. Io ho un portafoglio molto dinamico che è suddiviso in fondi azionari, Cina, India, Europa dell'Est, quindi tutti i mercati emergenti, e anche materie prime preziose, e quindi è abbastanza dinamico. Ho un orizzonte temporale medio-lungo e le devo dire la verità. Nonostante questa confusione del mercato, io sono, mi sento molto tranquilla perché sono consapevole dell'investimento azionario, cosa comporta. Ma mi chiedo anche, sono forse miope perché non tengo in considerazione questa economia emotiva che si sta realizzando così sul mercato? No, Maria, lei fa bene secondo me, perché il panico non è mai un buon consigliere per nessun tipo di atteggiamento. Ha un portafoglio molto ampio. Volevo però anche precisarle per correttezza una cosa: il professor Messori è un docente universitario, presiede l'associazione di categoria, quindi gestisce questa associazione e valuta qual è lo stato di salute di questa industria, non fa però il gestore di mestiere, per cui non può commentare anche il suo portafoglio di investimento. Detto questo, l'atteggiamento, sì, professor Messori, è giusto che non si lasci prendere dal panico, Maria, mi pare naturale, insomma, lo consigliamo a tutti, non ci si riesce però. Assolutamente sì, anzi mi sembra che proprio sia il contrario di miope. Avendo un orizzonte di medio-lungo termine, supponendo che paesi come Cina ed India abbiano prospettive di crescita molto rapide nel prossimo futuro, cioè al di là degli effetti che potrà avere questa crisi, che da finanziaria nei prossimi trimestri diventerà crisi reale anche su paesi come Cina ed India, e come dire, in qualche modo investendo sul fatto che un'economia mondiale trascinata da paesi di dimensioni così grandi come India e Cina si scontrerà su vincoli nell'offerta di materie prime, questa ascoltatrice, la signora Maria Grazia, ha fatto una scommessa di lungo termine, e quindi a me sembra del tutto equilibrato che valuti questa scommessa sul lungo termine. Naturalmente in qualche misura in questa scommessa è stata anche sfortunata, perché questa non è una crisi ciclica, diciamo così, normale, come crisi che possono venire dopo una lunga fase di espansione dell'economia, ma è una crisi particolarmente severa. Questo però non dovrebbe modificare le sue strategie. Ne abbiamo avuta già qualcuna nel secolo, ci siamo risollevati, succederà anche questa volta. La legnata è particolarmente importante, ci vorrà forse un po' più tempo, ma tutte le volte che si tocca un picco negativo poi ci si risolleva. Adesso dobbiamo sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, però Marco Liera, benvenuto. Buongiorno. Giornata di fuoco anche ai piani alti del Sole 24 Ore, la borsa ancora è in discesa. Anche a quelli umili, ai quali appartengo. Piani alti, nel senso, perché noi siamo al primo piano, sì, qui a Radio 24, il Sole è al secondo, quindi si mi è venuta male, però l'abbiamo. E ovviamente ti ho lasciato, Marco, anche un po' di domande relative ai chiarimenti che vanno fatti a proposito della tutela delle obbligazioni bancarie. Se la banca fallisce e io ho comprato da questa un'obbligazione bancaria, evidentemente della stessa banca, il mio investimento che fine fa? Noi con il professor Messori abbiamo spiegato che nel decreto non esiste una misura specifica su questo tipo di investimento. Detto questo, se la banca si salva, indirettamente l'investimento dovrebbe essere salvo. Però ecco, questo è tutto un frutto di una nostra interpretazione. Sono assolutamente d'accordo con questa interpretazione, perché ancorché il decreto non individui un'assicurazione specifica per le obbligazioni bancarie, così come invece è previsto per i depositi, ovviamente in via ulteriore rispetto al fondo interbancario, certamente il fatto è che lo Stato garantisca la solvibilità di qualsiasi istituto implica che non si arrivi mai a un default obbligazionario. Mm-hmm. Questa ovvio, è la sostanza. Se deve salvarne la liquidità. Certo è che così l'interrogativo è: ci sono 618 miliardi di euro di obbligazioni in circolazione emesse dalle banche italiane, ecco, in caso di crisi sistemica, che nessuno ovviamente si augura, anzi è un'ipotesi che non vogliamo prendere in conto, beh, in quel caso ci chiediamo, ma insomma, lo Stato sarebbe in grado di far fronte a tutte queste emissioni obbligazionarie? No, qui veramente stiamo facendo anche, a mio avviso, forse ci sono delle domande assolutamente legittime che derivano dall'emozione e dall'oggettivo crollo dei mercati che sta avvenendo e di conseguenza di fiducia, certo. Certo è che mi pare che ci sia una richiesta di rassicurazioni su casi veramente limite. Come no? I 103.000 euro di garanzia sui depositi, voglio per dire, esempio. Chi ha, non so, ci sono molti radioascoltatori, mi chiedo all'ascolto, che hanno 500.000 euro su un conto corrente. Non lo so, ecco, mi sembrano veramente delle ipotesi molto molto marginali. Ecco, diciamo che le persone che appunto hanno dei risparmi normali e li hanno collocati in borsa, in banca, secondo me non hanno nulla da temere, proprio non solo per la garanzia introdotta dal governo, ma perché da sempre c'è la garanzia del fondo interbancario sulla tutela per la tutela dei depositi. E in più, per quanto riguarda le obbligazioni bancarie, noi siamo di fronte a un sistema bancario estremamente solido. Il nostro è un sistema bancario sicuro, che è stato gestito bene sotto il profilo dell'assunzione dei rischi, molto meglio di quanto è avvenuto per esempio negli Stati Uniti. Questo magari l'abbiamo criticato in passato, perché spesso noi abbiamo criticato l'atteggiamento un po' troppo restrittivo delle banche nell'erogazione dei crediti, però oggi forse dobbiamo anche ringraziare questa prudenza. Professor Messori, ho anche altre domande per lei, poi la faccio interagire anche con Marco Liera. Intanto un paio di ascoltatori. Franco dalla provincia di Bologna, che ci dà modo anche di dare il là effettivamente al professor Messori, perché noi siamo partiti anche da questa provocazione, Marco. Ovviamente grandi ammontari di obbligazioni bancarie in circolazione, situazione che ha portato ai forti riscatti dai fondi di investimento. Siamo anche alla vendetta dell'industria del risparmio gestito, possiamo leggere anche questa situazione scherzando, ovviamente sdrammatizziamo anche un po' quello che ci guardia, quello che ci vediamo intorno. Franco da Bologna, sì. Franco, pronto? Franco, ci siamo. Sì, pronto. Senta, volevo un consiglio, parzialmente già risposto il vostro esperto. Volevo chiedere, siccome ho dei fondi azionari italiani garantiti al 2012, stanno perdendo solo il 4%, mi sono rivolto alla mia banca per vedere se mi conveniva acquistare dei buoni del tesoro per renderli più sicuri. È stato fatto un'obbligazione a 6 anni garantita dalla banca con tasso Euribor più 0,25. Volevo sapere dal vostro esperto cosa mi conviene fare, se stare fermo o calcolando i rischi, insomma. Franco, io la ringrazio. Beh, intanto magari Marco, dammi un giudizio tu, se lui è andato a cercare il bot e la banca insiste, gli vuole dare qualcos'altro che comunque ha un rendimento agganciato a parametri molto differenti rispetto ad un titolo di Stato, già qua ci troviamo di fronte ad un atteggiamento discutibile. Sì. Peraltro, Deborah, il titolo che gli è stato proposto non è manifestamente inefficiente, nel senso che un Euribor più 0,25 comunque è un tasso interessante in questo momento. No? Però bisogna fare attenzione a una cosa, perché evidentemente l'offerta è così interessante? Evidentemente perché anche ci sono banche a caccia di liquidità. Quindi si sa che investendo in titoli bancari in questo momento ci si assume un piccolo rischio aggiuntivo rispetto all'investimento in titoli di Stato, e questo è appunto testimoniato dal fatto che sul mercato, mediamente a parità di durata temporale, di tipologia di titolo, le obbligazioni bancarie rendono circa il 2% in più dei titoli di Stato. Per esempio sulla durata triennale siamo a un 6% lordo contro un 4% lordo. Però il risparmiatore che vuole una scelta prudente, e per questo era intenzionato a sottoscrivere, a comprare sul mercato dei titoli di Stato, se appunto vuole una scelta di massima sicurezza, accontentandosi del rendimento dei titoli di Stato, fa benissimo a scegliere i titoli di Stato. Se si fida della sua banca, io ritengo che gli italiani hanno motivo di fidarsi della loro banca, è interessato ad avere un rendimento superiore, fa altrettanto bene a scegliere l'obbligazione che rende di più. Federico da Roma, così concludiamo col professor Messori. Bene. Lei ha detto giustamente che questa deve essere un po' la vendetta del sì, mi è venuto un termine sfortunato, però insomma, dicevo col professor Messori, i nodi tornano al pettine prima o poi. Sì, guardi, dunque, lei sta parlando adesso con un promotore finanziario. Io dirò che più che la vendetta di questa gestione, questa deve essere la vittoria della consulenza e della pianificazione, o meglio, della conoscenza del cliente, della conoscenza degli obiettivi, delle sue esigenze e quindi dell'accostamento a persone che hanno bisogni. Riceviamo delle pressioni incredibili per dismettere i fondi e fare tutto ciò che ha amministrato, titoli, perché le banche non hanno più soldi, la realtà è questa. Federico, lo scopriamo drammaticamente in questo periodo. So che sono maleducata e la sto chiudendo brutalmente, ma noi tra pochissimo dovremmo chiudere, ma ci torniamo per ancora per settimane su questa situazione, per cui se vorrà potrà richiamarci e intervenire con noi. Professor Messori, cosa commentiamo rispetto alla considerazione di Federico, promotore finanziario che ha subito nei mesi molte pressioni importanti per fare disinvestire dei fondi i propri clienti e collocare altri prodotti? Questo in qualche misura conferma quello che ci dicono anche i dati aggregati, e cioè che c'è stata una sostituzione fra prodotti del risparmio gestito e obbligazioni bancarie da un lato e dall'altro prodotti molto liquidi. E il problema che dobbiamo porci è: ma questa è stata davvero una scelta autonoma dei risparmiatori? Mi sembra che la discussione che c'è stata oggi e anche la considerazione che faceva il signor Franco ci renda molto cauti nel rispondere di sì. Sembra esserci una forte influenza da parte dei canali di distribuzione, quindi dei canali bancari, e questo è tanto più vero in una crisi severa come l'attuale, che determina anche per banche ben gestite vincoli di liquidità severi, e quindi c'è un forte pressione, c'è una forte pressione sui canali bancari per offrire sul mercato strumenti finanziari molto liquidi. Io credo però che questo non necessariamente sia sempre l'interesse dei risparmiatori, quindi un risparmiatore che voglia puntare su un orizzonte di medio-lungo periodo può utilmente, come si diceva prima, anche pensare a prodotti trasparenti, diversificati e facilmente liquidabili, quali sono i prodotti del risparmio gestito. Fra qualche mese ci interrogheremo poi anche sulle lezioni per tutti di questa crisi. Marco, 10 secondi su Plus 24 di domani. So che forse vi occupate di mutui, ma credo che troverà spazio anche tutta l'ondata di questa crisi, i suoi effetti. Sì, Euribor alle stelle, come è possibile gestire delle rate di mutuo che diventano sempre più alte, e analizziamo anche le proposte che arrivano. Avevamo ieri sul Sole 24 Ore l'intervista al membro del comitato esecutivo della BCE Lorenzo Binismaghi, che propone l'aggancio dei mutui casa al tasso BCE anziché all'Euribor. Sarebbe un bel risparmio per tutte le famiglie. Accidenti, magari ci fosse questa bella marcia indietro, ma non so se questa potrà valere un passo avanti, chiamiamolo un passo avanti per le nostre rate. Esatto. Grazie e a lunedì.